Ben sintonizzati e ben sintonizzate, siete all'ascolto di Tracce di Cinema, sono le 15.01, è giovedì 26 gennaio e 26. Ci siamo, siete sintonizzati su Radio Onda Rossa, Tracce di Cinema, come dicevo, oggi un gran bel film, Fede, vero? Sì, sì. Uno dei miei preferiti. Di quella stagione. Proprio un film, non scherzo quando dico perfetto, perché proprio è tutto perfetto, sembra una scuola di recitazione quando si va a vederlo, perché gli attori sono straordinari, ognuno, anche se appare per un breve momento sulla scena, ha il suo ruolo, insomma, proprio buca lo schermo, una ricostruzione perfetta per quanto riguarda i costumi e le ambientazioni, una regia pulitissima, una sceneggiatura anche super curata. Dinamica e curata, una sceneggiatura che ha avuto delle difficoltà inizialmente perché è rimasta nel cassetto per un sacco di tempo. Vedi. Era stata scritta da Eric Warren Singer ed è stata messa nella lista delle 10 nella classifica delle 10 migliori sceneggiature non prodotte, è una blacklist del 2010. Poi alla fine si è tutto quanto sbloccato grazie a questo regista David Russell che l'ha curata e l'ha riscritta, insomma, un po' a sua immagine, secondo le sue caratteristiche, l'umorismo, eccetera. L'estetica. Sì. E insomma, ci ha messo mano e il film ha funzionato indubbiamente. Stiamo parlando di La parezza inganna, American Hustle, un film del 2013. Descriverlo non si può perché è una narrazione molto dinamica e spesso anche non conseguenziale, perché ci sono tanti flashback, insomma, quindi non è facile raccontarlo, ma ha una sceneggiatura e una storia molto semplice. Che insomma secondo me hanno fatto proprio invidia a un sacco di altri registi e la colonna sonora, che vi devo dire, la colonna sonora è funzionale e perfetta al film, che è ambientato negli anni 70 e sono tantissimi i brani famosi che vengono utilizzati, riconoscibilissimi, spaziano dal rock al jazz. Le musiche sono curate dal grandissimo Danny Elfman, di cui abbiamo parlato tantissime volte, grande autore di colonne sonore, ha curato anche alcuni pezzi proprio della colonna sonora. E che dire di altro? Possiamo iniziare con la musica, Fede? Subito, sì. street one day. Chicago, does anybody really know what time it is? Sai perché che non si chiamano Chicago loro, eh? Mm-hmm. Si chiamano Chicago, si chiamavano Chicago Transit Authority. Poi invece la compagnia locale di bus li ha citati in tribunale perché si erano appropriati del nome, del marchio, e quindi sono stati costretti a abbreviare il nome della band. Che cominciò come band impegnatissima politicamente, molto sperimentale, e poi insomma passarono a delle atmosfere più melodiche e commerciali. L'apice del successo fu raggiunto negli anni 70 e 80, quando spesso raggiunsero il numero uno delle classifiche di Billboard. Tra i gruppi americani solo i Beach Boys insieme a loro hanno fatto registrare più hit nelle classifiche americane, e sono annoverati tra le band rock più longeve e di maggior successo della storia, avendo venduto più di 100 milioni di dischi. E negli anni 70 appunto furono leader assoluti negli Stati Uniti nella vendita di singoli, con 40 milioni di copie solo negli Stati Uniti, che fruttarono 23 dischi d'oro, 18 di platino e 8 di doppio platino. Oh, questo era il signor Santana, Evil Ways. Sì, è una cover di Santana, che perché in origine questa composizione era stata incisa da Willy Bobo, che l'ha incluso in un suo album Bobo Motion del 1967, e poi Santana la mise per ottenere un maggiore impatto di vendita al suo disco Santana del 1969. Parla di una ragazza vendicativa che si diverte a ingelosire il proprio fidanzato uscendo con un suo amico, una buona tecnica, direi. e in questo film fa da padrona l'arte della dissimulazione, no? E a dissimulare è bravissimo anche Christian Bale, perché per American Hustle è ingrassato quasi 20 kg, si è rasato la testa per fingere un riporto, il suo fantastico tupè, e ha recitato tutto il tempo storto, cosa che gli ha provocato un'ernia del disco, pare, per apparire più basso di quasi 7 centimetri. E pensa, Fede, che sul set, Robert De Niro fa una piccola parte, e è arrivato sul set e Christian Bale, insomma, stava lì che si aggirava e non l'ha riconosciuto. E per quanto era riuscito a cambiare la sua fisionomia, ed è bravissimo, perché insomma non è il primo film in cui dissimula se stesso trasformandosi. Arrivò a perdere quasi 30 kg nel film L'uomo senza sonno e a dimagrire 20 nell'Alba della libertà. Insomma, sì, è bravo a trasformarsi, sì. Now. Temptations, Papa Was a Rolling Stone, molto groove, c'è bella molto groove. Questa canzone soul scritta dagli autori della Motown, Norman Whitfield e Barrett Strong nel 1961 per il gruppo The Undisputed Truth, ma che fu pubblicata dai Temptations nel 72 ed inclusa lo stesso anno nell'LP All Direction. Sono proprio i Temptations che, rifacendosi alla musica gospel, hanno fondato il cosiddetto genere Detroit Sound, il sound creato dall'etichetta discografica Motown Records di Detroit, fusione di R&B e rock psichedelico californiano. Poi insomma hanno avuto, come tanti gruppi di successo, traversie e cambiamenti di organico fino alla confusione più totale in cui si sono divisi e c'erano due gruppi che si chiamavano con lo stesso nome e si sono fatti una guerra terribile. E quindi insomma però il gruppo originale è considerato quello capitanato da Otis Williams, in quanto al suo interno aveva un più alto numero di membri originali. E invece, Fede, forse non sapevi che nei primi anni 80 il regista francese Louis Malle stava preparando un film sulla storia di Abscam, perché American Hustle è liberamente ispirato a una vicenda realmente accaduta, un'operazione condotta dall'FBI chiamata Abscam dal luglio che è avvenuta dal 1978 al 1980, che si concluse con la condanna di 19 persone per corruzione, associazione a delinquere, 6 deputati e un senatore del Congresso Democratico, il sindaco di Camden Angelo Enrichetti e insomma un ispettore federale per l'immigrazione. Fu uno dei più grandi scandali per corruzione della storia del Congresso. E Louis Malle voleva farne un film che avrebbe dovuto chiamarsi Moon Over Miami, proprio scritto da lui e da John Garr. Dovevano essere i protagonisti, dovevano essere Dan Aykroyd e John Belushi e con Belushi che doveva fare la parte del, come si dice, conman truffatore, e Aykroyd che doveva recitare come agente dell'FBI. Però purtroppo Belushi morì nel marzo dell'82 e quindi il piano per il film affondò. Thelonious Monk, Straight Not Chaser. Eh sì, questo brano, questo è il brano, da non confondersi con l'omonimo documentario. Straight Not Chaser è il sesto album di Thelonious Monk per la Columbia. Il quartetto, oltre a lui al pianoforte, era formato da Charlie Rose al sax tenore, Larry Gales al contrabbasso e Ben Reilly alla batteria. Li voglio nominare perché erano tutti dei geni, non si può fare a meno, insomma, di ricordarli. Il disco originale comprendeva solo 6 brani, metà dei quali furono modificati a causa della ristretta durata del vinile. Nelle successive ristampe furono messi nella loro, insomma, ripristinate le performance nei loro tempi. Questo brano è diventato un classico anche perché testimone degli ultimi anni di attività e della piena maturità di uno dei più brillanti pianisti jazz di sempre. Parlavo del documentario, ho visto qualche pezzetto su YouTube, mi ha molto colpito. Hai detto ce lo dobbiamo vedere una sera. Insieme, sì. Con Vali, ciao Vali, come stai? Ci stai ascoltando, faccio un trillo. Il documentario è uno dei più bei documentari di jazz che sono stati fatti nella storia, in circolazione, e ha avuto una gestazione difficile. È iniziato tutto nel 1967 con Michael Blackwood, che per un periodo di 6 mesi seguì Monk in giro per il mondo, riprendendolo durante i concerti, dietro le quinte, in studio, in strada, al lavoro, a riposo a New York, Atlanta, in diverse città europee. Il risultato furono 14 ore di riprese inedite che furono poi montate per il documentario, trasmesso all'inizio esclusivamente dalla TV tedesca e mai più replicato. Molti anni dopo, nell'81, il noto produttore Bruce Ricker venne a conoscenza della presenza di questo straordinario materiale e chiese alla documentarista Charlotte Zwerin di lavorarci su. Si cercò di coinvolgere lo stesso Monk, che però in quel periodo era in precarie condizioni di salute e che glielo impedirono, e per mancanza di fondi rimase in stand by per ancora alcuni anni. Poi la Zwerin nell'86 riuscì a trovare $50,000. Il primo campione del film, della durata di circa mezz'ora, fece subito grande impressione, ma soprattutto impressionò il regista Clint Eastwood, che all'epoca stava girando il Bird sulla vita di Charlie Parker, e che decise di finanziare il completamento del film, che avvenne nel 1988. All'interno di questo meraviglioso documentario c'è Thelonious Monk che parla spesso, faceva molta fatica, ho visto nel documentario, si sa anche che, insomma, faceva molta fatica a parlare Thelonious Monk, un po' per timidezza, un po' perché proprio faceva fatica, la cosa che gli veniva meglio era suonare, e quindi si esprimeva, comunicava tutto quanto, comunicava soltanto, spesso solo e volentieri così, e parlava anche che si faceva fatica proprio a capire quello che diceva. E tra le varie cose, tra le varie interviste che ci sono, che ho sentito in questo documentario, proprio per capire che era un genio, a proposito di se stesso e della sua musica, diceva: non mi importa se tu ascolti la mia musica o no. E già questo ti fa capire che proprio andava oltre. Invece, a proposito del jazz, disse: riguarda la libertà, andare oltre sarebbe complicato. Proprio in questa affermazione c'è un po' tutto, e si capisce quanto Monk fosse una persona singolare, straordinariamente originale, oltre che geniale. Ed era conosciuto da tutti i suoi collaboratori e amici per non avere e non nutrire alcuna fiducia nelle regole per quanto riguarda la musica, naturalmente, ma anche nella vita. L'unica regola che il compositore doveva avere era per lui quella della libertà assoluta, non come caos ma come un'espressione che lasciasse spazio all'improvvisazione spontanea, elemento fondamentale nel suo mondo e in quello di fare jazz, nel suo modo di fare jazz. In una sequenza del documentario c'è il suo sassofonista Charlie Rose che gli chiede chiarificazioni a proposito di questo, Fede, senti che dice, sì, sullo spartito e su quale nota è meglio partire, sarebbe stato meglio partire, e il Monk rimane immobile. Dopo averlo guardato gli risponde: una di quelle che sono qui sul pentagramma, puoi suonare una di queste. E Charlie Rose, colpito, gli fa: ma ogni volta che voglio? E Monk gli risponde: ogni volta che vuoi tu. Per farti capire come stava lui, proprio andava proprio oltre. Poi si è ammalato gravemente, ha iniziato a non uscire più, non vedeva più nessuno, restava a letto, godeva di sensazioni semplici, guardava gli oggetti, annusava i fiori, apparentemente sembrava non gli fosse accaduto nulla, ma dentro la sua testa era esploso qualcosa, si era chiuso completamente in se stesso. Era già accaduto molte volte, come ha raccontato la moglie anche nel documentario, ma questa volta il suo silenzio è durato 10 anni, ha smesso di parlare, ha smesso di suonare. e questa difficoltà, no, nel parlare, che già sì, si vedeva quando lui insomma stava bene, è diventata importante, ed è morto nel 1982. Mi ha colpito molto all'interno del documentario, dei pezzi che ho visto, non è che li ho visti nel documentario, però insomma ci ho riflettuto, la presenza nella vita di questo uomo di tre donne, perché poi il jazz è uno spazio molto maschile, no? È fatto da uomini per uomini, anche la musica è molto maschile nelle sue sonorità, anche se ci sono state grandissime interpreti donne, no? Sì, sicuramente, però insomma è un ambiente maschile. E invece Monk ha avuto a che fare, le persone più importanti per lui sono state delle donne, la moglie Nelly, la compagna di avventure che forse era un po' anche una sua amante, la ricchissima Nika, detta la baronessa del jazz, e lui, colei che lo ha celebrato con il documentario, Charlotte Zwerin, che appunto gli ha reso omaggio con questo documento e questo regalo per tutte le persone che vogliono sapere meglio di lui. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la. Gli America con A Horse with No Name, mia cara Ottavia. Sì, sì, sì, singolo di grande successo, primo singolo degli America, nonché la loro canzone più famosa, apre il film, cioè proprio il protagonista che si, che, insomma, si mette a posto questo famoso topè che ricorre in tutte quante le scene, sempre un protagonista insieme al protagonista, è una canzone che il cui titolo portò qualche problema, perché inizialmente si doveva chiamare Desert Song e poi invece Horse venne chiamata in venne cambiato in Horse, che in slang americano significa anche eroina, e quindi questo indusse alcune negozi e stazioni radio a boicottare la canzone, ma in realtà c'era tutto un messaggio, c'è un messaggio molto ambientalista, molto bello, che vuole dare, insomma, il suo autore, Dewey Bunuel. È stata utilizzata in varie colonne sonore, anche in Breaking Bad, in una puntata dal titolo proprio omonimo. Breaking Bad, opera omnia, meravigliosa, stupenda. Io ho sognato per mesi di cucinare metanfetamina con Walter White e Jesse Pinkman, dopo che l'ho visto, ti giuro. Allora, Enrico Magrelli, ben ritrovato a Tracce di Grazie, Cinema. Buon pomeriggio. Come va? Bene, no, mi faceva molto sorridere questo aneddoto che Ottavia stava raccontando. Quello dei miei sogni che cucino metanfetamina con i protagonisti di Breaking Bad? No, perché vedi, allora sia le serie che i film ancora possono interferire con la nostra altro vita unica. Ah, voglia, Breaking Bad, io stavo completamente, cioè, ti giuro, ho visto tutte le puntate, veramente un'opera colossale, secondo me. No, sono d'accordo con te. Allora, qui con te per American Hustle, che stavo ricontrollando, è sicuramente tra i film che ho preferito di quella stagione. Sai, noi facciamo come tu che partecipi, certo. Sai bene le cinquine di quell'anno, mi sa che ci infilai proprio American Hustle. Hai scelto bene, anche perché poi vedi quello che succede, dopo qualche anno uno va a vedere le cinquine e si rende conto magari delle cose vaghe o fasulle che ha detto. In questo caso hai dato una preferenza a un film che io ho avuto modo di rivederlo, adesso non ricordo, sono passati un po' di mesi, sì. E ancora funziona benissimo. Il film è di 4 anni fa, se non sbaglio, più sì, o meno, no? 2013. E quindi rivisto ora, ancora sta in piedi, proprio perché può contare su una sceneggiatura implacabile per certi versi, per cui i colpi di scena e i rovesciamenti di identità fittizia sono veramente così, sono una girandola, sì. E poi c'è quel cast d'attori in stato davvero in stato di grazia, a parte l'uomo del tupè, Christian Bale, insomma, che sappiamo che è capace di qualunque metamorfosi. Noi eravamo convinti che la storia del cinema dovesse fermarsi al capitolo su De Niro, no? Sull'attore capace di essere un camaleonte, invece Christian Bale lo sta uguagliando, tra l'altro. Sì. E poi Bradley Cooper, e poi sono fantastiche anche le due attrici, Amy Adams, che non hanno candidato, perché tutti dicevano quest'anno è l'anno buono perché vinca l'Oscar, invece non ce l'ha fatta, peccato, perché è veramente una brava attrice. Poi c'è Jennifer Lawrence, rispetto alla quale ci inchiniamo, perché è giovanissima e ci colpisce sempre, è veramente un'attrice impressionante. E forse vale la pena ricordare che la cosa parte da una vicenda vera, cioè da un'inchiesta che alla fine degli anni 70 l'FBI decide di fare per, questa è una novità di cui non si è mai parlato, la corruzione negli ambienti della politica. Qui siamo al Congresso degli Stati Uniti. E quindi si mette in moto questa macchina che in certi momenti fa pensare un po' alla stangata, non so se tu sei d'accordo, se siete d'accordo, sì. Però poi naturalmente è molto molto diverso, appartengono veramente a due galassie non sovrapponibili, direi. Sì. Poi stavo ripensando anche qualche anno fa, c'erano c'erano tre filmografie che io accomunavo e di cui godevo veramente con gioia, e sono io David O'Russell tendo ad accostarlo sempre ai primi lavori di Wes Anderson, di Sam Mendes, per cui delle ricostruzioni molto accurate, perfino nei dettagli, delle sceneggiature solide e ricchissime, tanti personaggi, dialoghi brillanti, e li ritrovo in tutti e tre questi autori. C'è stato un periodo che non vedevo l'ora di vedere i loro film nuovi. Sì, poi David Russell ha avuto un percorso un po' più tortuoso, sì. Mentre appunto aspettavo la vostra telefonata mi veniva in mente quando, lavorando per Venezia, eravamo in piacevole missione negli Stati Uniti insieme a Marco Mueller e a Claudio Masenza, e vedemmo quello stranissimo film che era, il titolo italiano mi pare fosse le strane coincidenze della vita, era il 2003-2004 se non ricordo esattamente l'anno. Così I Love Huckabees, come no? Esattamente. I Love Huckabees. E quello fu veramente un grande insuccesso. Sì, per sì. David Russell, che veniva poi da Three Kings, che ce l'aveva fatto conoscere in Italia, Three Kings. Esattamente, e tanto che lui poi è stato fermo, ha avuto anche dei guai personali dei quali ha parlato con grande sincerità e commuovendosi, accompagnando uno dei suoi ultimi film in una conferenza stampa qui a Roma, cose che riguardavano la famiglia, riguardavano la sua situazione finanziaria, le difficoltà di un figlio, però in modo singolare poi quell'interruzione di 5-6 anni, appunto, perché tra i Live Huckabees e The Fighter, che poi lo ha riproposto come se fosse un regista del cinema indipendente, e lui ha quasi 60 anni, non dimentichiamolo, sì. Quindi del quando 58. Ha fatto The Fighter era quasi un cinquantenne, il che non vuol dire nulla da un punto di vista anagrafico, e lì poi si è rimesso in moto qualcosa, no? Proprio perché tutti i film successivi, tranne forse l'ultimo, che a me non dispiace, Joy, lui ha fatto il lato positivo, non dimentichiamo, notevole, è un film veramente molto molto bello. E poi questo, appunto, America Hustle, l'apparenza inganna, dimostrando non solo un grande talento ma anche un grande rapporto con quello che fa o che dovrebbe fare un film moderno. Quindi una grande sintonia con la musica, che è sempre una musica, io non sono un esperto di musica, per carità, quindi magari sto per dire una stupidaggine, che però lavora un po' con la memoria degli ascoltatori, sì, sì, e degli spettatori, sì. Non a caso poi, tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma per esempio abbiamo avuto qui a Tracce di Cinema anche il lato positivo proprio per le musiche, per cui è un regista che attenzioniamo anche da questo punto di vista. No, giustamente, qui vabbè, la colonna sonora è stata fatta da quel modesto, sì. Ovviamente, che si chiama Danny Elfman, che insomma, non scherza mai, non sbaglia, veramente non sbaglia, non so cosa ne pensiate voi, non sbaglia quasi mai le colonne sonore dei film ai quali viene chiamato così, a costruire il tessuto di note. E adesso vediamo cosa succede, perché poi, a differenza di altre cinematografie, Joy non è andato bene come si sperava che andasse, sì. C'era sempre la coppia Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, fidanzati solo sullo schermo, e secondo me era un film molto interessante, invece, perché proprio ci raccontava la nascita di un certo tipo di televendite, quindi però evidentemente non ha... Mi era piaciuto molto quel film. Sì, però non ha incrociato... evidentemente il gusto del pubblico, magari uno di quei film che uno tiene là e poi in DVD o programmato in TV uno magari dice però non era poi così brutto. Chissà se qualcuno l'ha messo, cos'era, è di un paio d'anni fa, chissà sì. Se qualcuno l'ha messo nelle candidature nomination, boh, penso di no però. Parlando, Enrico, delle qualità del film, sì. Stavo pensando al fatto che, come dicevi tu, il cast è proprio super degno, sono veramente uno più perfetto dell'altro, E, forse anche perché insomma Russell ci ha lavorato spesso con questi attori, hanno fatto tanti film insieme, quindi c'è una bella sinergia. E poi stavo leggendo, non so se tu lo sapevi, che molte delle scene sono state improvvisate, perché a Russell piace molto l'improvvisazione e lascia fare anche molto ai suoi attori. Pare che Bradley Cooper ha avuto proprio lui l'idea di questa cosa della dei ricetti, che c'è il testa e dei bigodini nella scena, ti ricordi la scena dei bigodini strepitosa, sì, sì, sì, di questa, certo, casa con la madre? E io l'adoro quella scena. E poi c'è stata la scena insomma più importante di improvvisazione, è stata la lite tra, nella camera da letto tra con la moglie, con Jennifer Lawrence e, sì, sì, certo, e Bale, perché diceva che non riuscivano a farla sta scena, insomma non gli veniva così come era sulla sceneggiatura. Allora Russell gli ha detto: vabbè dai ragazzi, improvvisate, fate un po' come vi pare. E loro hanno improvvisato e la scena è venuta talmente perfetta che però Bale si è un po' risentito, perché ha detto: beh però non rispecchia, se gli attori americani sono così, no? Stanno coi paraocchi, no? E gli sembrava un po' troppo diversa da quella scritta, lui voleva rispettare esattamente la sceneggiatura, e invece Russell gli ha risposto: odio le trame e amo i miei personaggi. Che mi sembra magnifico. No, ma poi Ottavia, quello che dicevi è vero, no? Che l'improvvisazione è sempre una cosa consapevole, se non è che all'improvviso qualcuno fa delle cose senza senso. E giustamente ricordavi come con alcuni di questi attori, nel film c'è anche De Niro, con cui Russell poi ha anche lavorato, c'è anche Jeremy Renner, probabilmente tutto diventa più semplice quando tu hai una sorta di cast che sembra una compagnia teatrale, no? Per cui per cui si entrano subito sulla stessa lunghezza d'onda di quello che devono fare, e se uno appunto deve affidarsi all'altro, deve fare da spalla a Jennifer Lawrence, nel momento in cui improvvisa viene 10.000 volte più semplice, naturalmente, no? Altrimenti si dà l'idea del caos, e questo secondo me sullo schermo, e questo secondo me lo spettatore lo coglie con un'immediatezza definitiva proprio, e lo coglie subito, quindi non si riesce a barare, no? Vedi delle scene improvvisate che proprio sembrano appartenere a un altro film, povero cinema. Io stavo adesso che mi hai citato De Niro, me lo ricordo maestoso nel lato positivo, è veramente uno spasso dall'inizio alla fine. Allora continuiamo con la musica. Enrico, noi ti ringraziamo, un abbraccio e alla prossima Tracce di Cinema. Molto volentieri, buon pomeriggio di nuovo, state ciao, bene, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. I Feel Love per Donna Summer. Io di questa ricordo anche una grande versione dei Bronski Beat. Certo, anch'io me la ricordo. I Feel Love, singolo di Donna Summer del 1977, dal genio di Giorgio Moroder e Pippo Lotte. Che accompagnarono questo brano, che era un brano disco music, che allora inizialmente era soltanto fatta dall'orchestra acustica, invece in questo caso lo accompagnarono interamente con un sintetizzatore Moog, e venne presto imitata da altri musicisti, e fu un'idea rivoluzionaria proprio creare un pezzo disco utilizzando come base strati sovrapposti ricavati esclusivamente dall'uso di un sintetizzatore, e otterrà un enorme successo ovviamente. Ma la cosa incredibile è il lascito di I Feel Love, che è enorme, perché si dice che una volta estrapolato e velocizzato, il ritmo del pezzo getta le fondamenta per la musica techno, aiutando a definire quello che oggi intendiamo comunemente come EDM, Electronic Dance Music. E aneddoto famoso divertente è che durante la registrazione della celebre trilogia berlinese, David Bowie ha ricordato l'entusiasmo di Brian Eno che entrò in studio brandendo in mano questo disco e dicendo: ho appena ascoltato il suono del futuro. Harold Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way, pezzo che è diventato uno standard, l'hanno rifatto un po' tutti. Beh, il pezzo dei Commoners, la cover dei Commoners è stupenda, indimenticabile, la mia preferita. Però non dimentichiamoci che questo, la prima versione registrata fu quella di Harold Melvin and the Blue Notes nel 75. In seguito vennero fatte appunto due fortunate cover, una cantata da Thelma Houston nel 76, artista della Motown, e l'altra quella dei Commoners. Ma anche Thelma Houston è notevole. Vabbè, ma i Commoners sono i Commoners. E io ti voglio leggere questa frase: Don't leave me in this way, I don't understand how I'm at your command, so baby please don't leave me in this way. A chi la dedichi? Questo sorrisetto. Io lo so a chi la dedico, tu? Sì. Anche? Bene, ok, andiamo avanti. Andiamo avanti perché questo è un brano che tu non hai gradito per niente, io invece sono rimasto folgorato e quindi ve lo propongo. A me piace di più la versione originale. Guarda. Che crescendo. Una cantante libanese statunitense, la cover è di un pezzo pop. Ma quale pop? L'hanno cantato i Jefferson Airplane a Woodstock, parla solo di LSD, di viaggi interplanetari, White Rabbit. E dai, Fede, no, l'hanno distrutto. È superiore. Ma io non trovo. Siamo ai saluti, carissima. Siamo ai saluti, vi ricordiamo che questa radio non vive d'aria, è libera, indipendente, senza padroni, senza padrini politici, senza pubblicità dal 1977, e vive grazie alle vostre sottoscrizioni e all'amore di tutte le persone che vogliono che continui a trasmettere. Quindi vi chiediamo, vi preghiamo di sostenerla attraverso il conto corrente postale 61804001, testata cooperativa culturale Laboratorio 2001, 2 Via dei Bosci 56 Roma, oppure attraverso tutte quante le indicazioni che ci sono sul sito della radio, che sono più veloci e più moderne. Sosteneteci, sostenete la radio, sostenete Radio Onda Rossa, sostenete la cultura antagonista e l'informazione antagonista. Ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16, indirizzo di posta elettronica tracce di cinema @ondarossa.info, c'è la pagina Facebook Tracce di Cinema Radio Onda Rossa, e ci salutiamo in bellezza con David Bowie. Flashback blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Get back on. Jean Genie lives on his back. Jean Genie loves chimney stacks. Like a reptile, she loved him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Loves to belong. Loves to belong.